Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori. Ci ritroviamo come ogni mese attorno alle pagine della Parola di Dio, alle pagine del Vangelo di Marco. Ecco, fin dall'inizio di questa nostra trasmissione invochiamo proprio l'assistenza, l'aiuto, la luce dello Spirito Santo. Veniamo probabilmente tutti da giornate intense, impegnative, abbiamo quindi bisogno un attimo di, come dire, far spazio nella nostra mente e nel nostro cuore per ascoltare, commentare e ricevere nuovamente la parola di Dio. Ecco, come sapete, il nostro appuntamento mensile dedicato al Vangelo di Marco si propone di leggere il testo dall'inizio alla fine e quest'oggi praticamente leggeremo insieme l'ultima pagina del Vangelo. Ci abbiamo impiegato 3 anni per percorrerlo dall'inizio alla fine e dentro di me provo una grande riconoscenza verso il Signore, perché in questi 3 anni, condividendo la parola di Dio, condividendo queste pagine del Vangelo di Marco, ho proprio imparato molto. Ho imparato molto da ciascuno di voi. Come sempre dico che le nostre puntate si dividono in 2 parti, c'è la parte in cui parlo io e c'è la parte in cui voi fate domande, voi fate riflessioni. E come sempre sottolineo, questa seconda parte è tanto necessaria quanto la prima, perché permette spesso di cogliere sfumature di queste pagine del Vangelo che altrimenti rimarrebbero inedite. Ecco, la volta scorsa avevamo terminato il nostro commento con la finale più antica del Vangelo di Marco, che si trova al versetto 8 del capitolo 16. Quando, dopo l'annuncio di risurrezione portato dal giovane uomo che si trova alla tomba, davanti alla tomba aperta, l'Evangelista Marco ci diceva che le donne uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Ecco, avevo spiegato la volta scorsa come questo versetto, in effetti, anticamente, rappresentava la conclusione del Vangelo, la conclusione più antica del secondo Vangelo, una finale che però ha posto fin dall'antichità alcuni problemi, perché terminare il Vangelo con alcune donne che di per sé dovevano annunciare la risurrezione e non la portano, con quelli che sono i depositari dell'annuncio pasquale che si chiudono nello spavento e nello stupore, che non dicono niente a nessuno. Ecco, tutti questi aspetti hanno suscitato perplessità in quelli che si trovavano a dover narrare il Vangelo. Probabilmente non si erano resi conto della sottigliezza della narrazione di Marco, che facendo tacere i protagonisti del Vangelo faceva salire sul palcoscenico della responsabilità coloro che questo Vangelo lo ascoltavano. Pensate che alcuni studiosi ritengono che il Vangelo di Marco fosse stato scritto proprio come una grande Aggadà pasquale. Cosa si intende per Aggadà pasquale? Come una grande narrazione che veniva proclamata a coloro che si preparavano a ricevere il Vangelo, il battesimo, nella notte pasquale. E allora questi catecumeni che diventavano i neofiti della comunità cristiana, ascoltando questo Vangelo e venendo rivestiti di bianco come il giovane che annuncia la risurrezione, vedendo proprio questa finale, erano investiti della responsabilità di diventare loro gli annunciatori della risurrezione, la responsabilità che ogni battezzato riceve dentro di sé. Questa però interpretazione non deve essere stata chiara ai primi amanuensi, i primi trasmettitori anche del Vangelo di Marco. Ed ecco che nei primi secoli si sono moltiplicate ulteriori finali del Vangelo, cioè quelli che noi stasera leggiamo, cioè i versetti da 9 a 20 del capitolo 16 di Marco, rappresentano una finale che è stata aggiunta al Vangelo in un momento posteriore alla conclusione del Vangelo stesso. potrebbe venire spontanea la domanda: come mai, se questa finale è stata aggiunta dopo, è poi stata riconosciuta come un testo canonico, come un testo ispirato e non come un testo apocrifo? Le ragioni che portano spesso a distinguere tra testi canonici e testi apocrifi sostanzialmente sono tre. Il primo, il testo per essere canonico deve essere antico, possibilmente precedente alla fine del primo secolo. E la finale che noi stasera leggeremo corrisponde a questo, cioè è una finale che è stata redatta prima della fine del primo secolo. Secondo, deve contenere elementi di ortodossia, cioè nel suo insegnamento non deve essere contraria agli elementi fondamentali della proclamazione di Gesù, della vita e del messaggio di Gesù. E anche questo criterio è rispettato da questa finale. Deve inoltre avere il sostegno dell'uso liturgico, cioè nei primi secoli i padri devono dar prova di aver utilizzato questa finale nei loro commenti legati ad omelie durante le celebrazioni o a momenti liturgici particolari. E anche questo criterio lo ritroviamo per questa finale. Ecco perché questi 12 versetti sono stati ritenuti canonici, mentre altre tipologie di finali, quindi ripeto, questa finale non è l'unica che è stata scritta per il Vangelo di Marco, altri, trovandosi con la chiusura del versetto 8 un pochino brusca, hanno aggiunto altre tipologie di finali. Queste non sono passate al vaglio perché in uno di questi tre elementi sono difettose. Una finale magari non è passata perché non era sufficientemente antica, un'altra perché non conteneva elementi di ortodossia, o una terza ancora perché non era stata utilizzata nelle liturgie più antiche. Quindi questi criteri sono quelli che hanno favorito alcuni testi invece di altri. Questa introduzione era necessaria per capire il testo che stasera leggeremo e commenteremo insieme. Bene, il testo che leggiamo insieme si divide in tre parti. La prima parte sono i versetti da 9 a 14 e si sofferma sulle apparizioni di Gesù. La seconda parte sono i versetti da 15 a 18 e cerca di evidenziare il ruolo dei discepoli come annunciatori della risurrezione. La terza parte, gli ultimi due versetti, sottolineano invece il ruolo di Gesù durante il ministero di annuncio dei suoi discepoli. Ed è molto interessante vedere come questi elementi si intrecciano l'uno con l'altro, le apparizioni, il ruolo dei discepoli e il ruolo di Gesù. Cominciamo dalle apparizioni, ascoltando i versetti da 9 a 15. Il risorto, di buon mattino, il primo giorno della settimana, apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Ella andò ad annunciarlo a quelli che erano stati con lui, che erano in lutto e piangevano. Essi, udito che era vivo e che lei lo aveva visto, non credettero. Dopo queste cose apparve sotto altro aspetto a due di loro che erano in cammino verso la campagna. Anche loro andarono ad annunciarlo agli altri. Nemmeno a loro credettero. Alla fine apparve agli 11 mentre erano a mensa. Li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, poiché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Allora, notate, la prima scena, la prima aggiunta che viene fatta alla finale di Marco, sostanzialmente rispetta la trama del racconto dal punto di vista contenutistico, perché evidenzia per tre volte un aspetto che è particolarmente caro all'evangelista Marco. Il secondo Vangelo si differenzia da tutti gli altri perché più degli altri mette in evidenza le fragilità dei dodici, le fragilità dei discepoli di Gesù. Ora, questa fragilità torna ad essere protagonista di questa pagina conclusiva, posteriore, del Vangelo di Marco. Per tre volte viene evidenziato, viene sottolineato che i discepoli di Gesù non credono a coloro che annunciano la risurrezione. Quindi, se le donne hanno vissuto il dramma del silenzio e in questo senso hanno deluso gli ascoltatori, i dodici, che già vengono da esperienze di fallimento, anche all'indomani della risurrezione di Gesù, deludono perché per ben tre volte viene messa in evidenza la loro incredulità. Che questo brano sia posteriore lo si capisce perché il redattore cosa fa? Prende i racconti degli altri Vangeli e li sintetizza. Nel primo caso, quando parla di Maria di Magdala, riprende il brano del capitolo 20 di Giovanni e vi fa una sintesi. Ella andò ad annunciarlo a quelli che erano stati con lui, che erano in lutto e piangevano. Essi, udito che era vivo e che lei lo aveva visto, non credettero. Il testo di Giovanni ci dice che Pietro e Giovanni, dopo l'annuncio di Maria di Magdala, si misero a correre al sepolcro per andare a vedere di persona. Vanno a vedere di persona, non riescono però ancora a comprendere quello che le scritture avevano detto di lui, quindi resta ancora la situazione sfocata. Subito dopo, nel secondo episodio che viene sintetizzato, qual è? È quello dei discepoli di Emmaus, capitolo 24 di Luca. Dopo queste cose apparve sotto altro aspetto a due di loro che erano in cammino verso la campagna. Anche loro andarono ad annunciarlo agli altri, nemmeno a loro credettero. Notate, laddove il redattore sottolinea qualcosa di diverso rispetto ai racconti originali, è l'enfasi sulla incredulità dei dodici. Quindi è questo l'elemento a cui lui che gli preme sottolineare. Ugualmente, al versetto 14 c'è il terzo episodio che viene sintetizzato, che è un altro episodio del capitolo 21 di Giovanni. Apparve agli undici mentre erano a mensa, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Ecco, quindi l'elemento principale di questa prima scena è l'elemento della incredulità. Allora, qua soffermiamoci un attimo su una sottolineatura di carattere teologico. È molto vero che nel Vangelo di Marco la sottolineatura portante nell'affresco che delinea i dodici è l'elemento della fragilità. Però questo aspetto viene utilizzato dal Vangelo di Marco per enfatizzare la sovrabbondante misericordia di Dio. Cioè Cristo riesce a servirsi di strumenti deboli per portare il suo annuncio, in modo che il suo annuncio manifesti una forza che non viene dalle caratteristiche di questi uomini, ma che viene esclusivamente da Dio. Ed è curioso come nel Vangelo di Marco è la narrazione dove più si nota lo scarto tra il Pietro che rinnega e il Pietro che viene posto come responsabile della comunità. Nel momento stesso, nel Vangelo di Marco, in cui viene detto a Pietro, che viene preannunciato a Pietro il rinnegamento nella notte in cui Gesù viene condannato a morte, gli si promette che una volta risorto, lui raggiungerà i suoi in Galilea e il primo ad essere raggiunto sarà proprio lui, Pietro. Nell'annuncio che viene dato alle donne viene detto: andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Cioè la fragilità non è l'elemento che impedisce a Dio di valorizzare coloro che egli ha scelto, al contrario, se posto nelle mani di Dio, sottolineo bene questo aspetto, se posto nelle mani di Dio, la fragilità diventa la via prioritaria attraverso la quale Dio si può servire di quelle persone. Quindi questa sottolineatura della incredulità dei dodici nella pagina conclusiva del Vangelo diventa per il redattore che pone il sigillo conclusivo sul Vangelo di Marco diventa la modalità principale per dire: nonostante tutto, non è che Gesù il risorto è andato a scegliere altre persone, no, ma ha portato queste persone alla presa di coscienza della loro incredulità, li rimproverò, ha sciolto la loro durezza di cuore, per la loro incredulità e durezza di cuore, e riaffida loro il mandato, cioè si fida nuovamente di loro. E qua ci troviamo in piena sintonia con gli inizi del Vangelo di Marco. È anche qui sempre interessante notare come Gesù agli inizi del Vangelo di Marco è atteso da secoli, giunge sulla scena per portare l'annuncio del Vangelo. Uno si aspetterebbe che, arrivata la maggiore età, Gesù si mette subito a predicare. No, il tempo passa e bisogna aspettare 30 anni. Arriva 30 anni e ci si aspetterebbe che fa subito dei miracoli. No, si sottomette prima Giovanni Battista, poi altri 40 giorni nel deserto. Torna dal deserto, ci si immagina che Gesù si metta subito ad annunciare. No, inizia il suo annuncio chiamando 12 persone. E allora notate questo Dio che continuamente fa dei passi indietro per rendere corresponsabile l'uomo. Dio sembra non fare nulla senza il coinvolgimento dell'uomo, al di là della sua fragilità e dei suoi limiti. Facciamo ora un breve stacco musicale in modo da darvi il tempo di ripercorrere questi versetti, prima di passare alla seconda scena, cioè i versetti 15-18, dove dopo l'annuncio di questa incredulità vediamo cosa viene chiesto in concreto ai 12. Un breve stacco musicale. Ecco, quindi dopo questa prima pagina che evidenzia l'incredulità, il testo nostro continua con i versetti 15 e 18. Ora, prima del versetto 15, un redattore di fronte a questa sottolineatura dell'incredulità dei discepoli, nel secondo secolo aggiunse altri versetti che non sono entrati a far parte del Vangelo. Perché? Prima di tutto, come vi dicevo prima, c'erano quei criteri. Deve essere un testo antico, questo testo venne scritto dopo la fine del primo secolo, nel secondo secolo, ed era un testo che non aveva tutti gli elementi dell'ortodossia. Ma lo ritroviamo in alcuni commenti, come ad esempio il commento di San Girolamo al Vangelo di Marco, nel quale lui dice di avere sotto mano un testo che, dopo il versetto 14, aggiunge queste frasi, ve le leggo. Quindi, Gesù li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E poi continua. Essi però si scusavano dicendo: questo mondo caratterizzato dall'infedeltà e dalla mancanza di fede è sottomesso a Satana, che insieme agli spiriti maligni non permette che venga accolto il potere vero di Dio. Per questo motivo, dissero a Cristo, rivela ora la tua giustizia. Cristo rispose loro: si è compiuto il limite degli anni del potere di Satana, ma si avvicinano altre cose terribili anche per coloro dei quali io stesso, dato che avevano peccato, sono stato consegnato alla morte, di modo che tornino alla verità e non pecchino più, per ricevere in eredità la gloria spirituale incorruttibile della giustizia a loro riservata in cielo. Disse loro: andate in tutto il mondo, eccetera. Cioè poi continua con il versetto 15 che noi oggi abbiamo nella nostra edizione del Vangelo di Marco. Perché questo blocco è stato respinto? Vi dicevo prima di tutto perché non era sufficientemente antico, ma poi perché all'interno di questo testo c'è un elemento che non risponde all'ortodossia della fede, cioè questa visione del mondo che non è praticamente, non è stato salvato, è ancora in preda al dominio di Satana. Una visione che è contraria alla teologia del Vangelo di Marco, perché se la teologia del Vangelo di Marco da un lato evidenzia la fragilità dei discepoli, dall'altro sottolinea che nel momento in cui questa fragilità viene posta nelle mani di Dio, questa fragilità diventa la strada maestra per la potenza di Dio. Ecco il senso dei versetti 15-18 che commentiamo adesso, perché dopo aver sottolineato per tre volte l'incredulità dei dodici, Gesù dice, disse loro, andate in tutto il mondo, voi, e proclamate il Vangelo ad ogni creatura, voi. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi invece non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno i serpenti in mano e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani sui malati e questi staranno bene e questi guariranno, secondo un'altra traduzione. Bene, notate, proprio alla fragilità di questi uomini, di questi discepoli di Gesù che hanno condiviso tutto il cammino dalla Galilea a Gerusalemme, è affidato il ministero dell'annuncio. E non è solo, cioè quello che viene affidato loro non è solo l'annuncio di una serie di parole, ma questa parola viene confermata da una serie di segni. E attenzione a quello che si dice al versetto 17, l'Evangelista sottolinea, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, non dice quelli che annunciano, non basta annunciare la risurrezione, bisogna accanto all'annuncio bisogna crederci e i segni non accompagnano quelli che annunciano. Uno può essere abilissimo nel parlare, può avere tutte le lauree di questo mondo, può avere tutte le abilità comunicative di questo mondo, ma se a queste abilità comunicative non c'è la fede che è la fiamma che scalda, che caratterizza questo annuncio di risurrezione, quell'annuncio di risurrezione non cambia la vita, non cambia la vita. Guardate, qui a Milano, in questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, è stato rappresentato al grande teatro della Fiera di Milano City il musical Credo. È un musical portato avanti dalla comunità Cenacolo di Madre Elvira. Un musical che è un annuncio vero e proprio di fede. Ma quello che traspare da questo annuncio è che questo annuncio è vita, è portato da ragazzi, da giovani ragazzi e ragazze che hanno vissuto la risurrezione sulla loro pelle, nella loro vita, e come si vede che quello che loro annunciano è accompagnato realmente dal segno di cui ci parla questo Vangelo. I segni solo nel mio nome cacceranno i demoni, per loro il demone per alcuni era la droga, per altri l'alcol, per altri altre forme di dipendenza. Ora, e cos'è successo in loro che hanno creduto se non la capacità di cacciare questi demoni? Parleranno lingue nuove, è stupefacente, quel musical che vede coinvolti più di 80 attori, bene, quegli attori sono di 20 nazionalità diverse. Io sfido ogni regista di questo mondo a mettere insieme un musical con 80 persone di 20 nazionalità diverse, c'è un problema anche solo di linguaggio. Eppure, quando dietro tutto c'è un percorso di fede, si riesce a parlare anche le lingue nuove, che sono le lingue di quella comunione in Cristo che permette di costruire un messaggio vitale. Prenderanno i serpenti in mano e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Anche qua la capacità di questi giovani, il musical era sempre preceduto da testimonianze della loro vita. dove questi giovani praticamente raccontavano ciò che erano e il cammino ancora in corso in loro che stanno facendo per lasciare esprimere la risurrezione. Ecco, il parlare del loro passato con serenità, con umiltà, con schiettezza, diceva questa capacità di prendere i serpenti in mano e senza che questo potesse più fare loro danno. Imporranno le mani sui malati e questi staranno bene. E anche qui, ecco, quel musical con le loro danze, i loro canti, i loro gesti, era una sorta di imposizione delle mani a tutti coloro che ascoltavano, perché praticamente comunicava quella forza stessa di risurrezione a chi ascoltava. Quindi questo per fare un'applicazione pratica, per aiutare a capire come questa frase del Vangelo di Marco, dove dice questi saranno i segni che accompagneranno non quelli che annunciano, ma quelli che credono. All'annuncio va aggiunta la fede, all'annuncio va aggiunta la fede. Nella liturgia ambrosiana ieri, come prima lettura, c'era un testo molto bello di Isaia, che è il testo del capitolo 60, anche questo ci aiuta a capire cosa significa portare un annuncio non solo a parole, ma caratterizzato dalla fede. In questo testo Isaia invita gli esuli dopo il periodo in cui sono stati in esilio a Babilonia, quindi lontani dalla loro terra, a tornare a Gerusalemme e a ricostruire il Tempio. Però prima di farli ritornare a Gerusalemme dice loro: attenzione a non fare l'errore di ricostruire un Tempio come quello che è caduto, come quello che è stato distrutto dai babilonesi. Il nuovo Tempio che voi dovrete costruire deve essere un tempio, dice Isaia, capitolo 60, le cui porte saranno sempre aperte, dice Isaia. Ecco, qui Gesù dice ai 12, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Guardate che questo mandato era un mandato inedito. Gli ebrei si rivolgevano agli ebrei, punto. E se si rivolgevano ai pagani, lo facevano per invitare i pagani alla conversione ed aderire all'ebraismo. Ora, Gesù qua dice, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura, punto. Quello che lui chiede è mettere ogni persona a contatto con il suo messaggio di salvezza. La gente sarà poi libera di aderirvi o di rifiutarlo, con le conseguenze ovviamente che ne deriveranno. Questo annuncio attraversa già le pagine profetiche dell'Antico Testamento. Isaia invita gli esuli a tornare a Gerusalemme e a ricostruire un tempio totalmente diverso dal precedente. Il tempio che era andato distrutto era un tempio che aveva delle porte, e queste porte erano chiuse. C'era una porta che era chiusa ai pagani, un'altra porta che era chiusa alle donne, un'altra porta che era chiusa al popolo di Israele dove potevano entrare solo i sacerdoti, un'altra porta ancora dove nemmeno tutti i sacerdoti potevano entrare, ma solo uno, una volta all'anno, il sommo sacerdote. Ora, per coloro che credono e che tornano a Gerusalemme, le porte del Tempio devono essere sempre aperte, notte e giorno, e ad ogni persona, perché Dio vuole incontrare ogni uomo. E per coloro che credono, aggiunge Isaia alla fine di questa stupenda pagina del capitolo 60 del libro, dice: se voi crederete, il popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in eredità la terra, sarete germogli delle piantagioni del Signore. Molto bella questa immagine. Chi crede diventa un germoglio delle piantagioni del Signore. Ora, che cos'è il germoglio se non è una realtà che è pronta a fiorire, che porta speranza, che porta futuro? Ecco, chi crede diventa un germoglio nella piantagione del Signore. Quindi il mandato che viene affidato agli undici in questa pagina è proprio quella di essere germogli nella piantagione del Signore, diventando segno con la loro vita. Quei segni che vengono qui menzionati, cacciare i demoni, parlare lingue nuove, prendere in mano i serpenti o bere qualche veleno senza riceverne danno, imporre le mani sui malati per farli star meglio, sono tutti segni di un futuro di speranza di cui i 12 sono come dire, incaricati. E allora, cari ascoltatori, vedete la differenza. Da un lato, nella prima scena veniva evidenziata la fragilità dei 12, per 3 volte veniva sottolineata la loro incredulità, la loro durezza di cuore. Subito dopo cosa viene evidenziato? Viene evidenziato il grande tesoro che questa incredulità può diventare nel momento in cui accoglie il dono di Cristo. E accogliendo il dono di Cristo non solo per annunciare parole, ma credendoci. Laddove l'annuncio e la fede sono uniti, quelle vite che erano vite di incredulità, vite fragili, diventano segno vivo, germogli nella piantagione del Signore, capaci di portare un annuncio di speranza. Ecco, lasciamo ora un altro breve stacco musicale prima di soffermarci sugli ultimi 2 versetti, che evidenziano invece quello, il ruolo che Gesù ha nei passi dei primi discepoli sulle strade del mondo. Allora, stiamo proprio vedendo insieme questa pagina conclusiva del Vangelo di Marco e dicevamo che questo redattore finale, un po' forse scandalizzato dalla finale più antica, quella del versetto 8, si premura di aggiungere 12 versetti. 12 versetti che da un lato cercano di rispettare la narrazione dell'Evangelista Marco, dall'altro però cercano di dare alla chiusura un tono un pochino più solenne, meno dimesso. Questa chiusura, dicevamo, è divisa in 3 momenti, un primo momento sottolinea l'incredulità dei 12, un secondo momento, che è quello che abbiamo appena commentato, fa notare la grande trasfigurazione che viene operata nei discepoli di Gesù nel momento in cui si mettono a disposizione per quello che sono dell'annuncio di Cristo, ed ora gli ultimi 2 versetti, 19 e 20, ci fanno capire come questi 2 elementi uniti, la fragilità e la potenza di Cristo, cosa operano. Allora ascoltiamo i versetti conclusivi, i versetti 19 e 20. Dopo aver parlato con loro, il Signore Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Essi invece partirono e predicarono dovunque. Il Signore agiva con loro e consolidava la parola attraverso i segni che la accompagnavano. Allora, questi 2 versetti che concludono anche per questo redattore è il Vangelo di Marco sono molto belli, perché se noi dovessimo dipingere la scena ci troviamo con, da un lato, il cielo. Dopo aver parlato con loro, il Signore Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Ora, se l'Evangelista, il redattore, dicesse Gesù fu elevato in cielo, punto, ci sarebbe da preoccuparsi, perché è come se viene sganciato dalla realtà di questa terra e portato in una dimensione altra, che è la dimensione del Padre, però è sempre una dimensione alta. Invece aggiunge che il Signore Gesù non fu solo elevato al cielo, ma sedette alla destra di Dio. Ora, sedere alla destra di Dio significa operare insieme a Lui, partecipare del suo potere provvidente sul mondo. Quindi il risorto non è che lascia il mondo, ma si unisce al Padre per portare avanti il disegno di salvezza sugli uomini attraverso la sua azione, attraverso il suo influsso sulla terra. Quindi da un lato il cielo, dall'altro dovremmo dipingere questi discepoli. Essi invece, notate anche qua l'avversativo, cioè che vuole porre un po' le due parti in opposizione, il cielo con Gesù che siede alla destra del Padre, i discepoli invece in terra partirono e predicarono dovunque. Quindi anche qua i discepoli si mettono in movimento, Gesù si siede alla destra del Padre. E anche qua il rischio sembrerebbe essere quello: da una parte c'è il cielo, dall'altra la terra, da una parte Dio e il Figlio, dall'altro gli undici in cammino. Ma non si ferma qui il testo. Dice: il Signore agiva con loro e consolidava la parola attraverso i segni che la accompagnavano. Cioè, tra questa, la distanza tra il cielo e la terra non c'è più. La terra non è più lo scabello dei piedi di Dio, no. In quegli undici vive il Cristo che prende forma dentro di loro, che agisce con loro e rende forte la parola con i segni che la accompagnano. Il primo segno sono soprattutto questi undici. Accanto a questo segno che gli undici trasfigurati sono, ci sono tutti gli altri segni di cui abbiamo parlato prima, che sono appunto prendere in mano i serpenti, parlare lingue nuove, cacciare i demoni, guarire gli ammalati e così via. Questi sono i diversi segni, ma il primo segno che rende forte la parola sarà il segno proprio degli undici. E notiamo in questa finale aggiunta dal redattore che c'è anche un obiettivo, quella di evidenziare in modo forte l'universalismo del Vangelo. Anche in questo il redattore rispetta l'Evangelista Marco, l'abbiamo visto più volte durante i commenti alle pagine di questo Vangelo. Marco tiene a evidenziare l'apertura universale di Gesù e il luogo simbolo di questa apertura universale era il lago di Tiberiade con le famose traversate di questo lago. Cioè, attorno a questo lago ci sono le rappresentanze di tutto il mondo di allora, ci sono gli ebrei e i pagani, ci sono i commercianti e ci sono i contadini, ci sono gli uomini e ci sono le donne, tutti gli elementi che rappresentano l'universalismo, il mondo, si può dire, dell'Evangelista sono racchiusi in quest'area geografica e Gesù è colui che li abbraccia tutti. Ora, questo universalismo paradossalmente è rappresentato anche, è ben racchiuso anche da questa finale di Marco. Perché dico che è rappresentato da questa finale di Marco, da questi 12 versetti conclusivi? Perché qui il redattore non fa altro che sintetizzare i racconti degli altri Vangeli. Vi ritroviamo dei brani di Luca sintetizzati, dei brani di Giovanni sintetizzati, dei brani di Matteo sintetizzati. Ora, perché noi abbiamo quattro Vangeli e non uno solo? Perché i quattro Vangeli rappresentano il modo diverso in cui l'unico cherigma, l'unico annuncio pasquale è stato vissuto e raccontato dalle prime quattro grandi comunità cristiane. La comunità cristiana di Gerusalemme e di Antiochia, di cui l'espressione è proprio il Vangelo di Matteo. La comunità cristiana di Alessandria, di cui l'espressione è il Vangelo di Marco. Le comunità dell'Asia Minore, di cui portavoce è l'Evangelista Giovanni. E poi le comunità cristiane di Roma, di cui il rappresentante è l'Evangelista Luca. Quindi Matteo, Luca, Marco e Giovanni, nelle loro narrazioni, sono coloro che racchiudono in sé le diverse aree geografiche del mondo e che hanno declinato l'unico annuncio della risurrezione per popoli diversi. Non solo, ma dietro questi quattro racconti ci stanno quattro protagonisti diversi, che sono i fondamenti vitali della Chiesa delle origini. Li troviamo Pietro. Dietro il Vangelo di Marco, è chiaro, è palese che l'Evangelista Marco ha un'attenzione particolare per la figura di Pietro, tanto vero che alcuni scrittori antichi lo ritengono colui che ha scritto quasi sotto dettatura di Pietro, l'hanno definito il segretario di Pietro. Dietro il racconto di Luca c'è Paolo, quindi le due colonne del cristianesimo, Pietro e Paolo. Dietro Matteo sembra esserci Giacomo. E dietro ovviamente il quarto Vangelo, il testimone che riceve il nome di discepolo amato, c'è Giovanni. Quindi i quattro grandi apostoli da cui poi deriva la diffusione del Vangelo nelle comunità cristiane più antiche della storia del cristianesimo sono ben rappresentati proprio da questi quattro Vangeli. Il fatto che la finale di Marco, aggiunta dal redattore, porti dentro di sé la sintesi delle finali di questi diversi Vangeli è un segno di quell'universalità che tanto è sottolineata. È un modo proprio per non concludere in modo dimesso. Il redattore ci teneva a sottolineare come, al di là della fragilità dei dodici o delle donne, la potenza della risurrezione è riuscita a farsi strada, perché questi uomini e queste donne si sono consegnati nelle sue mani. E non solo è riuscita a farsi strada, ma è riuscita ad aprire i loro cuori in modo tale da aprirli al mondo intero e da rispondere a questo annuncio che fin dall'inizio si prefigurava come un annuncio universale. Si conclude così il Vangelo di Marco. Ecco, quella che abbiamo commentato stasera era l'ultima pagina del cosiddetto settimo atto narrativo. Abbiamo visto in questi tre anni come il Vangelo di Marco viene un po' scandito in sette grandi archi narrativi. Anche qua il numero non è casuale. Sette sono i momenti narrativi, come sette sono i giorni della creazione, e il settimo atto narrativo è come il nuovo Shabbat, il grande giorno che dà compimento ad ogni cosa. E guarda caso, nel Vangelo di Marco il settimo arco narrativo è quello che racchiude in sé il mistero pasquale, quel mistero di passione, morte e risurrezione che costituisce il centro della fede cristiana e il centro del suo annuncio. Quindi tutto trova qui il suo vertice, ma anche il punto di partenza, che ha messo in cammino i discepoli all'indomani della risurrezione di Gesù. È giunto adesso il momento vostro, cari ascoltatori. Come sapete, come ho detto anche all'inizio, la parte delle vostre domande, delle vostre riflessioni è tanto preziosa quanto la parte della mia riflessione. Lascerei quindi spazio ai vostri interventi dopo lo spazio musicale, che dà modo a ciascuno di voi di prendere contatto con la redazione della nostra Radio Maria e continuare in questo modo la riflessione su questa pagina originale del Vangelo di Marco. Sì, pronto? Sì, buonasera, oh. Don Giacomo, pronto? Sì, mi dica, con chi parlo? Sì, buonasera, sono Cristiana, parlo dalla Toscana, da Arezzo. Sì. Sì, buonasera Don Giacomo, senta, innanzitutto grazie di tutto, perché ascoltarla è un piacere per il cuore, veramente un sollievo e anche un nutrimento importante per la mente. Senta, io mi volevo un attimino rifare alla prima parte del commento del versetto che lei ha fatto per quanto riguarda le apparizioni alle donne. Mi scusi, sono molto emozionata. Ecco, volevo semplicemente rilevare che non poteva essere facile per i primi credenti, per i discepoli, per gli apostoli, per la comunità appunto, credere a quello che potevano riferire semplicemente delle donne, che si sa benissimo che nel primo secolo non venivano neanche considerate degne di ascolto. Ecco, questo dà maggior valore, secondo me, a questa rivelazione. Volevo, ecco, che ampliasse un attimino un po' questo concetto di come le donne non potevano essere creduse. Certo, certo. La ringrazio tanto, grazie, Cristiana, per questa sua sottolineatura. Ed è bello anche sentire un po' di emozione quando telefonate, perché almeno mi sento in compagnia. Anch'io quando inizio la trasmissione sono emozionato, perché è giusto che è così. Davanti alla parola di Dio, no? Ci si sente sempre un pochino timidi, tutti, ed è bene mantenere questo atteggiamento. Allora, Cristiana ci invita a porre l'attenzione su un aspetto importante, no? Questo aspetto delle donne. Avevo iniziato proprio la trasmissione riprendendo quello che avevo detto un mese fa. Le donne vengono descritte così dopo che ricevono l'annuncio della risurrezione. Il giovane dice loro: andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Versetto conclusivo, che era la finale originale del Vangelo: esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro. Strano già questo aspetto: escono dal sepolcro, uno dice corrono, non fuggono, invece dice fuggirono via dal sepolcro. Perché fuggono? Perché erano piene di spavento e di, la traduzione dice di stupore. Di spavento e di agitazione bisognerebbe tradurre con alla lettera, cioè gli aggettivi, i sostantivi che vengono utilizzati sono due sostantivi che evidenziano sfumature negative. Quindi c'è l'elemento della fuga, c'è la paura e c'è l'agitazione. E poi quello che lascia di stucco il lettore è: non dissero niente a nessuno, quindi tacciono. Perché erano impaurite? Perché avevano paura. Bene, uno dice: ma come mai? È vero quanto dice Cristiana, le donne non erano considerate delle testimoni credibili. Il fatto è che se noi andiamo a leggere gli altri Vangeli, questo può valere quando magari è una donna che porta l'annuncio, ma qua è più di una donna, sono diverse le donne che corrono e che dovrebbero portare l'annuncio, quindi bene o male, cioè, anche se erano donne, la loro testimonianza poteva essere in qualche modo più credibile. Qui, nel caso del Vangelo di Marco, preciso, nel caso del Vangelo di Marco, c'è tutta un'attesa che è stata preparata, perché il lettore che segue la trama narrativa ha visto pian piano uscire di scena tutte le figure positive, eh? Prima sono usciti di scena i dodici, poi sono uscite di scena le persone del popolo che riconoscevano Gesù, poi sono usciti di scena il popolo in quanto tale, Dio stesso che nel momento della morte di Gesù tace, non si fa sentire, non manda segni particolari. Le uniche figure che restano in scena nel momento della morte di Gesù sono le donne. È chiaro quindi che il lettore che segue la narrazione di Marco pone tutte le sue speranze su queste donne, e invece arriviamo al momento chiave del racconto e le donne deludono, perché nel momento chiave del racconto in cui queste donne dovrebbero correre non per fuggire ma per portare l'annuncio, dovrebbero parlare per riferire non le loro parole ma quello che il giovane in veste bianca ha detto loro, deludono perché non dicono niente a nessuno e fuggono via impaurite. Tra l'altro c'è un paradosso, perché leggiamo il Vangelo di Marco, tutte le volte che Gesù aveva detto ai guariti, ai discepoli, alle persone che incontrava e che magari si erano espresse in riferimento a lui, di non dire niente a nessuno, tutti parlano. Qui invece nel momento in cui viene detto di parlare, le donne tacciono. E allora c'è qualche cosa che si nota, che è voluto da parte del secondo Vangelo, come se tutte le figure sulla scena dovessero sperimentare la pagina del fallimento. Sono falliti gli undici, ma alla fine falliscono anche le donne. Era fallito il giovane che aveva cercato di seguire Gesù, ora falliscono anche le donne. Chi resta sulla scena? Sulla scena resta la prima persona che viene trasformata, quel giovane che era fuggito via nudo, ora è lì sulla scena vestito di una veste bianca che annuncia il risorto. Le donne fuggono, chi resta ad accogliere questo annuncio di risurrezione? L'ascoltatore o il lettore? È lui che viene chiamato sulla scena, è lui che viene chiamato a assumersi la responsabilità di spogliarsi dell'uomo vecchio e di rivestirsi del nuovo. E se hanno ragione quanti ritengono che questo Vangelo veniva letto in occasione della veglia pasquale per i neobattezzati, l'immagine è ancora più forte, perché i neobattezzati si spogliavano dei vestiti vecchi ed erano rivestiti di bianco. Ricevendo questo annuncio diventano proprio come il giovane che annuncia la risurrezione e se ne fa portavoce. Sono loro davanti alla comunità, quindi gli ultimi arrivati, i più piccoli, se volete, della comunità, che diventano segno concreto di quell'annuncio di fede che portano. E allora notiamo che la sottolineatura per Marco non sta nell'evidenziare la debolezza delle donne legata un po' agli elementi della società del tempo. Questo può andar bene per Matteo, può andar bene per Giovanni, ma non per Marco. L'obiettivo di Marco è evidenziare come le donne e gli uomini, tutti i discepoli dell'unico maestro, per diventare testimoni della risurrezione devono passare da un momento di spogliazione e di fallimento. Solo dopo questo momento sono pronti per diventare testimoni della risurrezione, perché si è testimoni della forza di Dio solo se si ammette la propria debolezza. Grazie mille Cristiana per la tua domanda. Pronto? Pronto? Sì, con chi Pronto? Parlo? Sì, eccomi. Sì, buonasera, sono Emilio da Lucca. Mi dica, Emilio. Volevo chiederle, mi dà una spiegazione del significato Vangeli apocrifi? Perché io l'ho sentito dire, ma non so neanche di cosa si tratti. Va bene. Va bene, volevo sapere questo. Domanda telegrafica, la ringrazio tanto, l'ascolto per radio. Grazie mille, Emilio, perché la tua domanda sicuramente intercetta la curiosità di molti. Tra l'altro è una domanda molto opportuna, perché spesso sui Vangeli, sui giornali, scusate, soprattutto in occasioni di festività importanti come può essere il tempo di Natale o il tempo di Pasqua, il Natale soprattutto è sempre il momento che apre le porte alle narrazioni, vengono evocati i Vangeli apocrifi. Cosa si intende per apocrifo? Letteralmente il termine apocrifo significa nascosto, qualcosa che in qualche modo non è riconosciuto, non è stato riconosciuto, questa è la traduzione letterale. Così spiegando il termine apocrifo, per apocrifo noi intendiamo quei testi che non sono stati riconosciuti, ispirati dallo Spirito Santo e quindi non sono entrati all'interno della Bibbia. Ad esempio, oltre ai quattro Vangeli, tra i cosiddetti testi apocrifi esistono il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Bartolomeo, il Vangelo di Maria Maddalena. Sono tutti testi che portano il nome Vangelo di, ma che non sono ritenuti ispirati dallo Spirito Santo. Che cosa permette di distinguere i Vangeli apocrifi da quelli cosiddetti canonici, cioè da quelli che sono entrati nel Nuovo Testamento? Sono quei tre criteri che menzionavo agli inizi, cioè un testo per entrare a far parte della Bibbia, del Nuovo Testamento, doveva avere tre caratteristiche. La prima caratteristica è l'antichità. Tutti i testi del Nuovo Testamento in nostro possesso sono stati scritti senza ombra di dubbio, questo è provato da tutti gli studi scientifici e anche dai frammenti a nostra disposizione di questi testi antichi, tutti scritti prima della fine del primo secolo. I testi più antichi, più recenti, volevo dire, probabilmente sono quelli legati all'ambito giovanneo, quindi l'Apocalisse e le lettere di Giovanni sembrano essere i testi più tardi, scritti attorno all'85-90 d.C. Questo è il primo criterio. Secondo criterio, questi testi dovevano rispondere ai punti forti della dottrina cristiana, quindi alla passione, morte e risurrezione di Gesù, alla natura umana, alla natura divina di Cristo, al principio dell'incarnazione e così via, la verginità di Maria, tutti questi elementi, cioè gli elementi vitali della fede cristiana devono essere rispecchiati da questi Vangeli. Terzo criterio, i Vangeli per essere considerati ispirati dallo Spirito Santo devono avere anche la prova di essere stati molto utilizzati dai primi cristiani nelle loro liturgie e quindi essere molto commentati dai pastori delle prime comunità cristiane. Ecco perché sono importanti i commenti dei padri della Chiesa, perché i commenti dei padri della Chiesa ci permettono di individuare quei testi che erano proprio in circolo nelle comunità cristiane più antiche, che venivano commentate nelle liturgie. Questi tre criteri sono quelli che permettono di distinguere gli uni dagli altri. Prendiamo l'esempio di uno dei Vangeli apocrifi più famoso, anche se magari non è che lo conosciamo in diretta, non è che l'abbiamo letto sempre dall'inizio alla fine, ma alcune festività che sono presenti nella nostra liturgia vengono da questo Vangelo apocrifo, che è tra l'altro anche uno di quelli più antichi, il cosiddetto Proto-Vangelo di Giacomo. Il Proto-Vangelo di Giacomo viene scritto attorno al 150 d.C., quindi vedete subito dopo il primo secolo, è quello che ci parla di Gioacchino ed Anna, ci parlano di tutta la vita di Maria precedente all'incontro con Giuseppe, ci racconta anche l'incontro tra Maria e Giuseppe e il loro matrimonio. Quindi a questo Vangelo apocrifo attingiamo molti elementi che poi sono passati nella tradizione e che quindi magari ci sono stati insegnati anche riguardo, non so, la presentazione al Tempio di Maria viene da questo Vangelo. Però perché non è entrato tra i testi ispirati dallo Spirito Santo? Perché il Protovangelo di Giacomo contiene principi eretici. Il Protovangelo di Giacomo si oppone profondamente alla doppia natura del Cristo, cioè rinnega profondamente il principio dell'incarnazione. La Maria che viene dipinta dal Protovangelo di Giacomo è una Madonna che non si sporca i piedini per terra, fin da quando è bambina cammina sempre sollevata da terra. Perché? Perché dietro questa narrazione c'è una preoccupazione, quella di salvaguardare la divinità di Cristo e la santità della madre di Gesù, mentre viene messa in ombra l'umanità. Ora capite, questi due elementi non rispondono a un criterio vitale della nostra fede. Quindi nel caso del Protovangelo di Giacomo non c'è l'elemento dell'antichità, perché è dopo il primo secolo, 150, non corrisponde a un elemento dell'ortodossia, perché non riconosce l'umanità di Gesù, viene invece molto commentato dai padri, quindi un criterio ce l'ha, ma gli mancano gli altri due, quindi non viene riconosciuto tra i testi ispirati. Ecco, questo è ciò che distingue gli uni dagli altri, permettendo ai primi di essere più evidenti e agli altri un po' più nascosti, ecco perché considerati apocrifi, cioè più nascosti rispetto a quelli che sono i Vangeli canonici. Grazie Emilio, perché con la tua domanda hai permesso magari a molti di avere un pochino più di chiarezza su questo argomento. Pronto? Pronto? Sì, mi dica. Sono Francesca, chiamo dalla provincia di Napoli. Ecco, volevo chiedere, i padri che differiscono molto tra di loro, anche nella narrazione dei fatti sulla vita di Gesù, ovviamente il loro messaggio è indirizzato a varie comunità, come lei precedentemente ha spiegato, perché Marco si indirizza ai cristiani, sia ai cristiani, sia agli ebrei, quindi è un messaggio anche affidato alla comunità che fa del messaggio. Io però mi chiedo questo, si è parlato anche delle aggiunte, no? Marco, sappiamo, è l'evangelista più antico, il Vangelo più antico è proprio quello di Marco. Quando parliamo di aggiunte, come li dobbiamo interpretare? Come interpretazione teologica? Oppure, ecco, qual è il fondamento storico tra il messaggio di Gesù e quello poi interpretato anche dagli stessi apostoli? È riuscita a spiegarsi molto bene, va molto bene. Allora, ringrazio anche per questa domanda, perché anche questa domanda tocca un elemento importante, che è appunto l'elemento legato alla ricezione del Vangelo. Stavo cercando una citazione perché verrà vorrei proprio leggere, no? Legata a questi testi più antichi, vediamo se la trovo, se no pazienza. Praticamente la nostra ascoltatrice dice: ok, abbiamo quattro Vangeli, i Vangeli sono diversi tra di loro, e su questo punto non ci sono grosse difficoltà a intendere questa cosa. Cioè, se voi, io porto sempre questo esempio, succede un fatto, io prendo quattro giornalisti di quattro giornali diversi, anche di tendenze diverse, che mi devono raccontare il fatto che è successo. Tutti ricevono la stessa comunicazione, lo stesso lancio ANSA riguardo a quel fatto. Ecco, andate a vedere come lo racconta il Corriere della Sera, come lo racconta la Repubblica, come lo racconta Avvenire e come lo racconta un quarto giornale. Ognuno darà la propria lettura di questo fatto, in base a alcuni destinatari che vuole raggiungere, in base alla propria sensibilità che magari è stata toccata da un aspetto rispetto a un altro, e in base anche a come dire, la comunità che c'è alle spalle. La comunità di un giornale come il Corriere della Sera è diversa dalla comunità che sta dietro la Repubblica. Quindi è chiaro che lo stesso, il fatto è unico, però viene narrato in quattro modalità diverse, che possono essere considerate, se uno volesse capire bene che cosa è realmente successo, dovrebbe leggere tutti e quattro i racconti, perché ognuno contiene una sfumatura che magari l'altro per diversi motivi lascia perdere, quindi fin qui ci siamo. Nello stesso tempo faceva notare Francesca che i Vangeli sono spesso frutto di elaborazioni, cioè non è che chi scrive il Vangelo quando seguiva Gesù ci aveva il block notes in mano e si è appuntato tutto e poi ha messo solo in bella copia quello che si era appuntato, no? Nemmeno chi scrive i Vangeli è seduto a una scrivania in attesa che lo Spirito Santo gli dica parola per parola, punteggiatura per punteggiatura quello che deve scrivere, no? Gli evangelisti hanno tra le mani diversi documenti, Luca lo dice con tanta chiarezza all'inizio del suo Vangelo, L'inizio del suo Vangelo lui dice, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a voi, molti, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, anch'io ho deciso di fare ricerche, quindi curioso, non si accontenta di quello che hanno già scritto gli altri, lui fa le ricerche. Ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te. Vale a dire, tanti documenti, tanti racconti, mo li metto in ordine secondo il mio pensiero e ti do una narrazione ordinata che diventa lieto annuncio. Ora, quando si chiude questa narrazione ordinata? Dipende. Nel caso di Luca si chiude quando lui mette la parola fine. Nel caso di Marco si era chiusa al versetto 8, però le prime comunità cristiane sono comunità vive, cioè l'annuncio, il Vangelo che viene letto o proclamato deve servire a quella comunità, serve per la crescita di quella comunità. Probabilmente di fronte a un annuncio che lasciava perplessi molte persone della comunità con un finale così, come dire, disorientante come il versetto 8, ha spinto qualcuno della prima ora a dire aggiungiamo un'altra parte conclusiva che non tradisce il racconto dei Vangeli, perché io la prendo dagli altri Vangeli, faccio una sintesi, cerco di rispettare l'annuncio di Marco e lo metto qui. Ora, la comunità cristiana ha accettato questo inserimento finale, però il lettore viene avvertito, perché il lettore capisce che c'è un cambio stilistico. Ecco, vi volevo leggere un testo di uno dei padri della Chiesa che commenta proprio questa aggiunta finale, dicendo, però non l'ho trovato, scusatemi, dicendo che praticamente chi legge il Vangelo di Giovanni e non legge il Vangelo di Marco e non legge i versetti da 9 a 20, praticamente non perde il cherigma del Vangelo di Marco. Cioè il contenuto essenziale di tutto il Vangelo c'è, è lì, ed è lì tutto intero. Chi vuole leggere anche quei versetti è libero di farlo, anche se c'è un rischio, E questo rischio è quello di dare una chiave interpretativa del Vangelo letto finora un pochino diversa da quella che era la linea dell'evangelista. questo era uno dei testi dei primi padri della Chiesa, che utilizza più o meno queste espressioni, per farci capire come fin dagli inizi ci si era resi conto che quella parte era una parte, come dire, aggiunta dopo, ma che mantiene sempre la sua validità, il suo valore, proprio perché sono testi presi dagli altri Vangeli che servono per far capire come la storia è andata avanti, cioè quel silenzio delle donne non ha chiuso il Vangelo di Marco condannandolo al fallimento, no, gli ha dato lo slancio che ha trasformato in segni quegli uomini e quelle donne che hanno consegnato la loro fragilità nelle mani di Dio. Grazie quindi Francesca per la tua domanda. Pronto? Pronto. Eccomi, con chi parlo? Mi chiamo Maria dalla provincia di Modena. Ascolti, il Vangelo di stamattina diceva: uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù rispose: o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Io nella mia pochezza sto pensando a se Gesù era figlio di Dio, perché poi risponde così? Ok, va bene. Grazie. La ringrazio Maria per questa domanda, non è totalmente inerente al nostro brano, ma cerchiamo di rispondere allo stesso. Allora, premesso che la lettura che io le do adesso è una lettura comunque parziale, cioè io do una chiave interpretativa, ma se avessi così avuto il tempo di prepararmi bene anche sul brano di stamattina, probabilmente sarei stato in grado di dare una risposta più sfumata. L'interpretazione che io ho dato stamattina mentre leggevo questo brano era che Gesù in questo testo vuole evidenziare che lui non si pone a giudice come dire, dei rapporti quando questi rapporti toccano solamente il denaro o le cose materiali o comunque un principio di divisione tra un fratello e l'altro. Gesù si pone a giudice nel momento in cui viene toccata l'essenzialità dell'uomo. Tanto vero che il testo poi continua e mette in evidenza il pericolo di aggrapparsi alla disonesta ricchezza. Quindi Gesù non vuole essere, in altre parole, strumentalizzato nelle pretese di un uomo contro il suo fratello, ma evidenzia, attenzione, perché la vita non dipende dai beni che noi abbiamo. Attenzione, perché quell'uomo ricco che aveva fatto costruire i magazzini ancora più grandi e aveva detto: ora anima mia, riposati, goditi la pensione, vai in pace, mangia e bevi. E il Signore dice: stolto, questa notte ti sarà chiesto conto di tutto quello che hai messo da parte, e quello di chi sarà? Quindi a quell'uomo praticamente è vero che dice: non voglio entrare in queste cose, nello stesso tempo però porta quell'uomo che gli ha fatto la domanda all'essenziale della vita e praticamente lo giudica. Cioè, quello che Gesù non vuole è l'essere strumentalizzato, non vuole essere strumentalizzato a favore di uno contro l'altro, ma sottolinea un principio vitale nella vita di ogni creatura: attenzione ad aggrapparsi al denaro, perché il denaro poi diventa una prigionia che ti soffoca, ti fa investire tante energie, tanti sogni, ti fa entrare in una logica che ti fa dimenticare l'elemento di base, e magari tutto quello che tu hai costruito, messo da parte, diventa solo motivo di tensione, di litigio con il fratello che ti è accanto. Ne vale la pena vivere una vita in tensione con il tuo fratello quando questa vita è così breve? Vedete, Gesù non vuole essere strumentalizzato, ma non è che viene meno al criterio di dare un'indicazione a chi lo interpella. Grazie Maria per la tua domanda. Pronto? Pronto? Eccomi. Sono Giuseppe da Roma. Ascolti, dunque c'è stato un punto dove lei ha parlato delle porte del Tempio di Gerusalemme, dove si diceva che presso alcune porte era proibito l'accesso alle donne, altri pagani stranieri, altri solo i sacerdoti potevano entrare e in una soltanto il sommo sacerdote una volta l'anno. Sì. Ora, dando un significato diverso, no, al Tempio, non come edificio come sono le nostre chiese, no, ma dando un significato di entrare nel cuore di Dio, quindi nella parola, no, ecco, con questa accezione, e rapportando quel discorso delle porte ad oggi, io è mia impressione che la predicazione del Vangelo si mantenga in una situazione, in una sorta di, come dire, di superficialità, non viene detto profondamente quello che è, cioè quasi alla popolazione, al popolo di Dio ci si mantenesse in una superficie. Io adesso non vorrei ricorrere a degli esempi, magari si allungherebbe la cosa, però ho notato che presso alcune porte, diciamo, della conoscenza profonda del Vangelo accedono solo delle elite, quasi gli altri non capissero, e mostrandomi con questo poca fede proprio nella gente. La verità non fa mai male, se è verità, appunto, no? Non so se ho espresso. Spero Giuseppe di aver capito bene la tua domanda, no? Tu applichi praticamente le immagini del versetto 11 del capitolo 60 di Isaia: le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti. Applichi questo versetto alla parola di Dio, no? Dicendo che cioè nostro compito vitale dovrebbe proprio essere quello di rendere la parola una porta sempre aperta, e effettivamente l'immagine che tu utilizzi, tu applichi, è indovinata, perché la parola di Dio dovrebbe avere le porte sempre aperte di giorno, di notte, per lasciare entrare, per lasciare uscire per coloro che la leggono proprio la ricchezza che in essa è contenuta. Quindi è vero, compito della Chiesa dovrebbe essere quello di restituire sempre la ricchezza della parola a tutti, senza riservare la parola di Dio solo a chi studia o a chi fa parte dell'elite. È il grande salto di qualità, se vuoi, che abbiamo ricevuto e che è stato formalizzato, c'era già anche prima, c'era tutto un cammino prima, dal Concilio Vaticano II. È uno dei grandi passi che il Concilio ha fatto, è quello di rimettere la parola di Dio nelle mani della gente, sotto la spinta ovviamente di tutto un movimento biblico liturgico che aveva preparato il Concilio Vaticano II. Qual è il rischio però che corriamo sempre? Non basta avere il libro tra le mani, come non bastava, dicevo prima, che i discepoli annunciassero la parola di Dio. Ci vuole la fede, bisogna crederci. A volte anche chi annuncia la parola di Dio può correre il rischio menzionato nel Vangelo, di cui sono accusati gli scribi, di che quando Gesù, rivolgendosi agli scribi farisei, dicono: voi avete la chiave della conoscenza, ma l'avete tolta dalla serratura, così non siete entrati voi e avete impedito anche gli altri di entrarvi. Il rischio a volte di chi è scriba, cioè chi legge e commenta la parola di Dio, a volte è questo, quello di come dire, rendere poco accessibile la parola di Dio. Ecco, spero che questo servizio che viene fatto da tanti conduttori ai microfoni di Radio Maria abbia proprio il piccolo frutto, ognuno con i suoi limiti, per carità, però di aprire le porte della parola di Dio. Vedete, sabato alla sede di Radio Maria c'è stato l'incontro di tutti i conduttori. Io sono andato per la prima volta, le altre volte non ero mai riuscito ad andare, e per me è stato un grande dono, perché ritrovarsi in una famiglia dove tutti, si, con l'aiuto di Maria, dando la mano a Maria, guidati un pochino dall'unità, dell'unica chiesa, cercano di, come dire, schiudere, spingere un pochino l'uscio della porta, perché la ricchezza della parola di Dio, la ricchezza della nostra fede possa risplendere, veramente un grande dono. Cioè ci si sente parte di una famiglia dove il bene viene moltiplicato e torna a chi lo compie, perché è più quello che si riceve di quello che si dà. Quindi grazie davvero, Giuseppe da Roma. E il tuo intervento mi permette anche di dire grazie a tutti quelli che insieme a me e da molti più anni condividono questo servizio di conduttori. Pronto? Buonasera Don Giacomo, sono Elena, chiamo dalla provincia di Varese. Mi dica Elena. Allora, innanzitutto la ringrazio moltissimo per tutto questo percorso in questi 3 anni che ci ha portato veramente a conoscere bene il Vangelo di Marco, Vangelo che io personalmente avevo un po' accantonato rispetto agli altri perché non ne avevo capito la particolarità. Quindi la ringrazio e adesso vengo alla mia domanda, che riguarda il versetto 12. Quello in cui si dice che Gesù apparve a 2 di loro sotto altro aspetto, eccetera, eccetera. A me è venuto in mente subito l'episodio narrato dal Vangelo di Luca dei 2 discepoli di Emmaus. Sembrano proprio loro. E quindi, rafforzata poi questa mia, tra virgolette, supposizione, dal fatto che lei alla fine abbia detto che questa nuova finale cerca di integrare un po' tutti gli altri 3 Vangeli, diciamo, ecco. Per cui mi è venuto in mente questo parallelismo. E inoltre anche era curioso, tra virgolette, secondo me, il fatto di come lo narra Luca, perché Luca dà un nome a uno dei 2 mentre l'altro non lo nomina e quindi si apre un po' a tutti noi, cioè come se fossimo noi gli altri l'altro discepolo, l'altro apostolo. Certo. Mentre vabbè, qui Marco ancora di più non li nomina, lascia un po', io pensavo potessero essere 2 degli apostoli, invece parla 2 di loro, magari 2 di quelli che seguivano Gesù, ecco. Se può magari spiegare un po' meglio questa parte, ecco, se le mie supposizioni possono essere accettabili o meno, la ringrazio molto e l'ascolto per radio. Grazie Elena della tua domanda, la tua intuizione è correttissima, effettivamente qui il redattore riprende e sintetizza l'episodio dei discepoli di Emmaus, a suo modo però, perché noi sappiamo dal racconto dei discepoli di Emmaus che quando loro tornano, fecero ritorno a Gerusalemme, dice Luca al capitolo 24, trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Non dice che non credettero. Quindi notate la curiosità, l'elemento curioso di questo redattore. Probabilmente questo redattore dice: ok, io devo in qualche modo non lasciare finire il Vangelo di Marco in modo così brusco con il versetto 8, ma non lo posso nemmeno, come dire, tradire nella sua narrazione facendo semplicemente la sintesi degli altri Vangeli, delle finali degli altri Vangeli e metterle qua. Devo rispettare lo stile di Marco. E siccome Marco ha sempre enfatizzato le difficoltà dei discepoli, allora lui riprende i racconti, però enfatizza l'incredulità degli 11, mostrando come il Signore parte da qui poi per ricostruire. Mi permetto di aggiungere una piccola postilla sui nomi dei 2 discepoli. Molto vero, in Luca viene menzionato solo 1 di loro. Chi è l'altro? E qui le interpretazioni sono le più diverse. Una delle interpretazioni che a me piace molto e che a mio avviso risponde alla tipologia della narrazione lucana è che l'altro sia la moglie della persona che è menzionata per nome. Cioè il Vangelo di Luca in questo modo inizierebbe con delle coppie, Elisabetta, Zaccaria, Giuseppe, Maria, e terminerebbe con una coppia. A questa lettura è diventata un pochino famosa non solo perché è stata fatta una tesi in teologia biblica sull'argomento, sulla pagina di Luca 24, vedendo nei due discepoli la figura maschile e femminile, ma anche perché si è molto diffusa un'icona scritta dalla suora benedettina Marie-Paul Farran, che vive al monastero delle Benedettine Francesi di Gerusalemme sul Monte degli Ulivi, che ha diffuso proprio questa icona dei due discepoli di Emmaus, che sono uomo e donna, marito e moglie, e è diventata un po' una delle icone che vengono anche regalate in occasione delle nozze a diversi giovani sposi. Quindi, cara Elena, la tua intuizione era giusta e corretta, e grazie anche per la tua domanda. Ecco, stasera mi fermerei qui, perché prima di salutarvi e di ringraziarvi, vorrei, cari ascoltatori, anticiparvi un pochino il tipo di percorso che faremo. Proprio sabato ne ho accennato anche a Padre Livio, e Padre Livio mi ha detto che poteva andare bene la scelta che avevo pensato, cioè dopo aver fatto la lettura continua del Vangelo di Marco, che abbiamo impiegato un po', però è stato, penso, bello questo percorso, a me ha dato molto, grazie anche alle vostre domande, pensavo di fare la lezione continua degli Atti degli Apostoli. È un po' più lungo gli Atti degli Apostoli, sono molti più capitoli dell'Evangelo di Marco, magari ci impiegheremo 4 anni, se Dio vorrà, 4-5 anni, però ci darà modo di vedere anche come la comunità delle origini cresce, quali sono i volti che la compongono, quali sono le tensioni che si respirano, e soprattutto ci permetterà di misurarci con due grandi apostoli. Pietro, da un lato, con la sua passione per l'unità della Chiesa, e Paolo dall'altro, con il suo zelo perché quell'annuncio che lui porta nel cuore sia veramente un annuncio universale. Vedremo anche però le fatiche che questi due fanno, e vedremo come sia Pietro che Paolo non sono i veri protagonisti della storia dei primi passi del cristianesimo, ma è lo Spirito Santo e la parola di Dio i veri protagonisti. E quindi tutto questo aiuterà un pochino anche il nostro cammino di fede. Vorrei ringraziare in modo particolare, al termine di questa trasmissione, quanti sono intervenuti con le loro domande, quindi Cristiana di Arezzo, il nostro Emilio da Lucca, Francesca da Napoli, Maria da Modena, Giuseppe da Roma ed Elena da Varese. E ringraziare tutti voi per avermi fatto compagnia in questi 3 anni nel percorrere il Vangelo di Marco. Abbiamo fatto un bel cammino, ora non ci resta altro che mettere anche noi le nostre povertà e fragilità nelle mani del Signore, per diventare anche noi Suoi germogli, Suoi segni abitati di risurrezione. Un caro saluto e una buona serata a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.